fossi io, viene lento di vagar, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Questa mattina sono perfettamente consapevole di essere in procinto di pronunciare un'eresia che mi procurerà molti nemici, soprattutto fra le persone che più amo e stimo, come la collega Nicoletta Carbone, che dopo di me con assiduità e con grande professionalità porta avanti una trasmissione di divulgazione medico-scientifica. Ieri parlai con Nicoletta e già l'avvertì che oggi avrei inferto questa terribile ferita che creerà un abisso nei nostri rapporti. Ma oggi porrò pubblicamente all'attenzione del pubblico, può chiamare all'800240024 quanto la sto facendo lunga, una mia personale perversione, una profonda avversione alla medicalizzazione dell'esistenza. Ieri Nicoletta lungamente cercò di convincermi di partecipare lunedì prossimo alla trasmissione che farà sulla prostata, perché dice: ora che tu ti presenti come il caso estremo e perverso di essere umano che si rifiuta di andare dal dottore. Io ho avuto pochi giorni fa una situazione in famiglia abbastanza preoccupante per tutti, proprio perché ho un padre che ha la mia stessa perversione, che è arrivato a 85 anni, che mai si era fatto vedere da un dottore. Una volta che per sbaglio passò davanti a una macchina che faceva lastre, videro che dentro aveva di tutto, quindi hanno cominciato a tagliare a pezzi, a metterlo a posto e via dicendo. E probabilmente anch'io mi ridurrò alla sua stessa età nella stessa maniera. Ma questa mattina vorrei chiamare a raccolta tutti quelli che per perversione, per loro impossibilità di vivere la contemporaneità che è fatta di autopalpazioni, di autoanalisi, di continui check-up, si rifiutano di pensare di avere addosso una carcassa fatta di carne, ossa, nervi, muscoli, tenuta psichiatrica, che ogni tanto ha bisogno di una revisione. Ma questo è un nostro problema, lo ripeto. Harry! Richard! Sono incasinato. Che è successo? Sto andando dal dottore, sai, ho dei fortissimi dolori al petto. Ah, non è niente. È indigestione o colicisti o ulcera o un po' di... No, ho dei precedenti in famiglia. Mio padre è morto prematuramente di infarto, mia madre di trombosi coronarica e due miei fratelli sono morti a 50 anni di attacco cardiaco. Scusa, perdi tempo in chiacchiere, chiama un'ambulanza. Ho deciso di essere sincero. Dirò fino in fondo la mia perversione. Vado raramente dal dottore, fra un po' devo andare dal dentista e questo mi preoccupa, non posso farne a meno, perché sennò altrimenti mi cade la mascella, come nel film La Mosca. L'unica persona a cui mi faccio mettere gli occhi addosso, e poi non materialmente, ma in realtà attraverso una protesi elettronica, è un'amica mia dottoressa, che grazie a Dio vive lontanissima, sta in Sardegna. Ogni volta che qualcuno in famiglia ha qualche piccolo malessere, telefoniamo a lei e lei al telefono cerca di analizzare i sintomi e ci dà le cure. Devo dire, mi ha sempre ben curato, mi ha sempre ben rassicurato, ma oltre lei difficilmente, e ciò mi porterà malissimo, trovo momenti felici in cui accetto che un medico mi guardi in faccia e mi dica: beh, tu forse sarebbe bene che ti fai dare un'occhiatina. Ma siamo morbosi, tu credi di stare per morire, invece no, oggigiorno hanno il laser, hanno, lo sai, tutte le possibili... Cioè, tu con la scienza, vero? Sì, non c'è niente di male nella scienza. Oh. Sai, io preferisco, tra l'aria condizionata e il Papa scelgo l'aria condizionata. Ho paura, tu, oh Dio mio, il braccio... Te l'ho detto, non è niente, niente. Oh. Io non ho paura. Lei è in gran forma, in gran forma. Sì, sì, ha giusto un po' di borsite al braccio, ma... Davvero? Questo. Beh, è fantastico. Sì, certo. Oddio, visto grazie. Che cosa dico sempre io? Le parole più belle del mondo non sono ti amo, ma è benigno. Eppure sono un pessimo esempio da non seguire, assolutamente allontanate bambini e persone particolarmente sensibili alla radio questa mattina, perché è un esempio da non seguire, ma mostrare con lucidità e orgoglio le proprie perversioni significa educare tante persone a comportarsi diversamente. Cos'è che mi dà fastidio? Mi dà fastidio che ad ogni nostra angoscia ci sia un rimedio tipo medico. Ci guardiamo allo specchio, non ci piacciamo, possiamo veramente porre un rimedio di tipo chirurgico alla nostra bruttezza. Siamo tristi, ci ci sentiamo depressi, questa parola poi si sovrappone ad ogni nostra oggettiva lettura del tragico universale che ci circonda. Ma dici così perché sei depresso, sei un po' giù. Un'amica carissima ieri mi ha detto: tu hai le pupille spente. Immediatamente mi sono sentito uno zombie, ma l'ultima cosa che mi verrà in mente è di andare a un medico per questo. Buongiorno, come andiamo, signora Paoloni? Male. Vede che migliora? Ieri ha detto malissimo. Buongiorno, non si alzi, stia comoda, chiuda la porta però. Che culone bianco che ha. Due appendiciti. Zucconi. Ernia strozzata. Bandolini. Cirrosi epatica. Drupo. Diverticoli. Piedoli dietro. Solito digiuno. Le amate. Tutto bene. Forse sarà perché il mio imprinting fanciullesco è fortemente impresso dalla figura del dottor Terzilli. Ogni volta che vedo un medico vedo il dottor Terzilli, ma so che anch'io un giorno arriverò strisciante, camminando a quattro mani, con la bava alla bocca, con gli intestini in mano, a pregare un medico di darmi un'occhiata. Lui mi guarderà altezzoso, mi guarderà con disprezzo e dirà: ah, fine, sei venuto finalmente, era ora. Stanotte per esempio non ho dormito, mi sono ricordato che 8 anni fa ho mangiato una bistecca e se era mucca pazza. Ho letto di una persona che è morta 8 anni dopo averla mangiata. Comunque la settimana scorsa ho dato retta al suo consiglio perché lei ha ragione. Solo guardando in faccia la morte posso combattere questa paura di morire. Ma non ce la faccio, non ce la faccio. Ma come fa la gente? Come fa? Si innamora, si sposa, fa figli. Ma a che serve se possiamo morire così, di colpo, da un momento all'altro? Magari mentre dormiamo. Lo sai che il 70% delle persone muore nel proprio letto? Il letto è un posto pericolosissimo. Infatti io da 6 mesi dormo sul divano. Naturalmente, perché questa mattina sia surrogata da pareri illustri e non soltanto dall'elencazione delle mie follie, ho portato il mio psichiatra di fiducia, che naturalmente non mi abbandona mai, Giuseppe Neri, buongiorno. Ciao Gianluca. Neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Giuseppe Neri, non sapevi esattamente, ci siamo tante volte parlati di questa mia particolare visione della vita, vorrei subito il tuo giudizio, ma non certo il tuo referto medico. No, nessun referto, ti devo dire anzi che sei in ottima compagnia. La maggior parte dei colleghi medici che io conosco condivide, alcuni lo confessano, altri no, questo tuo approccio, che dal punto di vista delle linee guida, della buona pratica clinica, dei suggerimenti e delle norme, dell'igiene, della prevenzione, non è corretta. No, però è sbagliatissimo, io lo so, un esempio perverso, ma è come quelli che fumano col pacchetto di sigarette scritto sopra fa male alla salute. Ti guardano con un'area di sfida, come dire: io posso farlo, che vuoi, sono fatti miei. Io non fumo, non ho vizi, sì ogni tanto mi faccio qualche margarita, ma non sarà una cosa che mi farà schiattare. Però ho questo senso di fastidio, impossibilità, gambe cementificate e piombate ogni volta qualcuno dice: perché non ti fai vedere da un dottore? È un problema di frequenza di contatto, nel senso che dal punto di vista di noi medici forse esiste il problema delle persone che in certe circostanze ricorrono con estrema frequenza e con eccessiva insistenza alla consultazione del medico. Esiste anche l'altra estremità della curva, cioè persone che forse perché hanno un delirio di onnipotenza o hanno timore di entrare in contatto col rischio di sapere che qualcosa non va, non lo vedono per niente. Ovviamente dovrebbe essere un pochino a metà strada il buon senso, ma il buon senso non so se abbia tanto diritto di cittadinanza ai nostri tempi. Ecco, io leggo sui giornali in questi giorni il problema di molti medici che lavorano ai pronti soccorsi, sono impegnati ai pronti soccorsi, la fila di persone che va, che per un raffreddore, un colpo di starnuto, 2 linee di febbre, va lì dicendo: l'influenza suina, aiutatemi, salvatemi la vita. Beh, su questa cosa io racconto sempre che per caso ero negli Stati Uniti a maggio quando nasceva questa cosa, e la cosa più bella erano i canali di lingua spagnola per gli americani che parlano lo spagnolo, quindi latinoamericani, che usavano un termine splendido che è la gripe porcina. Ora, la gripe porcina è molto più carino che l'influenza H1N1, a parte questa battuta. Il problema è sempre un problema di comunicazione che riguarda voi giornalisti molto più che noi medici. Cioè, ma io sto parlando in questo momento, un momento di confessione in cui esco dal ruolo, sennò sarei depennato dall'ordine, non posso fare questa disinformazione. Ho come confessato una mia debolezza. Ci sono quelli che vanno davanti a un microfono e dicono: che ne so, mi faccio di eroina da 10 anni, che ne so, tradisco mia moglie, sono un perverso, leggo fumetti ancora alla mia età. Io ho detto: questo è il mio problema, ma non è che è un esempio da seguire. Ma esiste della patologia lettura di fumetti e astensione da contatto con il medico? Sì, vabbè, sono quelle attività terrificanti. Può darsi che correli con alcuni sintomi particolari. Va bene. Avanti, abbiamo Riccardo al telefono, primo ascoltatore. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a lei, Nicoletti. Mi chiamo Riccardo, le voglio dire che sono perfettamente d'accordo con lei. Io, tanto per dirle, ricorro al medico praticamente zero, nel senso che io è da anni, ad esempio, che non prendo un cachet, un medicinale per mal di testa o cose varie, nonostante che negli ultimi anni ne abbia subito, abbia subito delle cose anche tragiche. Tanto per dire, 2 anni fa mi è morto il figlio in incidente stradale, io ho fatto, sono arrivato fino al riconoscimento della salma e non ho preso un cachet per mal di testa, nonostante che il medico mi dicesse prendi qualcosa, prendi una qualcosa che ti tenga un po' su. 3 mesi prima mi ero rotto un braccio in incidente stradale per compito di un drogato che mi aveva investito e nonostante tutto lì ho subito un intervento perché sono stato obbligato, però successivamente non ho più preso un medicinale in assoluto. Beh, oddio, un braccio rotto forse dà un po' fastidio, è bene farselo mettere a posto. Lì sono stato obbligato ad andare, ero a Bologna. Anch'io mi sono operato i menischi perché non potevo camminare, ecco, mi trascinavo. Però dico, francamente, io quando sono un po' depresso così che sento che potrei accedere a qualche medicinale. Ha detto depresso, cosa... che ha parlato di una patologia, però se dice che lei è depresso significa che già... No, depresso nel senso che ho dei problemi. Tu, tanto per dire, ultimamente ho avuto... Sono qui sulla pagina locale dove abito io, in provincia di Rovigo, Veneto. Sono apparso sul giornale perché mi sono scontrato qui con un circolo arci che è frequentato da giovinastri che passano la notte a fare rumore. Ho avuto uno scontro anche col sindaco del comune. Ero particolarmente teso, però non ho preso un medicinale neanche... Cioè lei non teme l'infarto per arrabbiatura, quindi sta tranquillo. No, io sono una persona molto impulsiva e molto aggressiva, però ho imparato che se ricorre ai medicinali poi divento un dipendente. Io, per dire, quanti anni ha lei, scusi, Riccardo? 58. 58, va bene, ancora diciamo che qualche annetto forse può permettersi di avere questo atteggiamento di disprezzo. No, adesso dato per dirle, in questo momento, mentre sto parlando con lei, mi è caricato un po' di tensione perché l'impatto è evidentemente... Sono io che le faccio girare le scatole, no? No, lei a parte che lei mi è simpaticissimo, io non vedo l'ora al mattino di ascoltarla, per essere chiaro. Ma questo non per farle un complimento di piaceria, ma per dire che mi fa piacere sentirla. Vabbè, adesso però la seguo, stiamo parlando troppo, devo passare all'ospite, arrivederci. Antonio Maturo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. L'ho tenuta in ascolto fino adesso, non per disprezzo, ma semplicemente per darle elementi di valutazione. Antonio Maturo è un ricercatore, docente di sociologia della salute all'Università Roberto Ruffilli di Bologna, ha curato il libro La medicalizzazione della vita, edizioni Franco Angeli, che d'oggi in poi sarà la mia Bibbia. Grazie, troppo gentile. Dunque, sì, quello che lei ha, diciamo, tratteggiato è quello che sta accadendo, l'estensione della sfera del patologico. Oggi il linguaggio medico per certi versi ha preso il posto del linguaggio religioso, ci rassicura, definisce in maniera chiara alcuni aspetti che altrimenti sarebbero sfumati o comunque sfuggirebbero al nostro controllo. E così quindi diventa patologia la tristezza, la timidezza, l'ansia, la calvizia, l'agitazione dei bambini. Ora io non voglio fare un discorso, come posso dire, luddista o antitecnologico. Io mi curo con i medicinali quando mi sento male e non sono affatto distante dalla razionalità medica. Tuttavia riscontro che soprattutto se pensiamo agli Stati Uniti, dove la pubblicità per i farmaci, ad esempio, è liberalizzata, si è bombardati da richieste. Quindi lei, per stabilire una equa linea di demarcazione fra l'ossessione che tutto possa essere medicalizzato e un atteggiamento meno perverso del mio di avere un giusto rapporto con quelle che sono quella che è la scienza medica. Mi interrompo soltanto con lei perché la richiamiamo un istante, dottore, perché sennò altrimenti sembra che lei abbia la dentiera, ma è semplicemente la linea telefonica che non è ottimale. La richiamiamo, intanto sentiamo Alberto. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Io volevo riportare le mie esperienze, la penso come lei abbastanza, Nicoletti. Beh, sono baruffianate tutti, qualcuno dica anche che non la pensa come me. Ma le dico anche perché, guarda, io andavo dal dottore 20 anni fa, magari perché mi ero strottato una... insomma, mi ero fatto un po' male fisicamente. Il dottore è peggio, cioè io lo guardo, ma è lì con la pancia che mi guarda con gli occhiali, non mi tocca neanche, non vuol sapere niente. Ma ci sono anche delle belle dottoresse, cambi medico. Sì, ma nei film e basta. Comunque la sostanza è che sono messi peggio di me, cosa mi deve dire? Questi, i dottori da noi, obiettivamente, fanno ridere perché vanno lì, nemmeno mi fanno le dico un'esperienza mia in Cina che è stata curiosa. Se uno si fa male in Cina, va all'ospedale e lì sa che trova il dottore dedicato. Quindi io ho mal di denti, ho male alla pancia, ho male, voglio il dermatologo, che era quello successo a me. Sono andato in Cina, ho fatto la mia coda e dentro l'ospedale ti garantiscono un immediato contatto. Guarda, io so che molte città italiane sono dei quartieri specializzati proprio da popolati da cinesi. Sì. Faccia l'esperienza, vada a vedere, che trova anche, secondo me, quello che le cerca, un medico cinese che risolve. No, ma non sto lodando il medico cinese, però da noi obiettivamente i medici nostri sono anche, ti fanno perdere quella poca fiducia che uno può avere nella medicina. Sì, però un pochino stiamo un pochino generalizzando. Sentiamo Giuseppe Neri, riportiamo un attimo in termine una battuta, poi devo lasciare la linea. No, senza corporativismi, bisogna distinguere. Il medico deve essere qualcuno che si prende cura della persona, non è uno spacciatore di pillole, per citare Edgar Lee Masters, e come diceva Maturo poco fa, facendo riferimento al luddismo, non è un propositore di tecnologici esami sofisticati, è uno che prima si occupa della persona e cerca di capire, poi sceglie gli strumenti. Una cosa, Giuseppe, il signore, trascinato dalla veemenza della patologia alla quale anche io soffro, si è fermato però non a caso nella descrizione fisica del medico. Il rapporto epidermico con il medico, se crea sgradevolezza, uno pensa, perché questa persona fradicio nel corpo e nell'anima dovrebbe occuparsi di me? Allora, ascolta. C'è questo gap proprio di tipo fisico? Ci sono due setting diversi. Lui penso che descrivesse il contatto con, chiamiamolo, medico di famiglia, ce ne sono tanti che lavorano molto bene. Io ti porto 30 anni di esperienza di chi sta di notte a Ferragosto a Capodanno in ospedale e vede di tutto, e sicuramente non può permettersi il lusso di non toccare le persone, anzi le tocca da capo a piedi e cerca di fare del proprio meglio. Quindi sono due mondi che bisogna tenere presenti quando si parla di queste cose. Però è importante considerare che il medico è anche un essere umano, assolutamente, un uomo. E quindi l'empatia con questo essere umano fa parte già del contatto, della necessità. E come fa un medico a creare un rapporto empatico e positivo con il paziente? Nessuno glielo insegna. Per cui è un patrimonio che riesce ad acquisire se ha la sensibilità e se dall'esperienza sa trarre insegnamenti. 800 24 0024, stiamo parlando della medicalizzazione della vita, ne stiamo parlando in maniera semmai possibile scherzosa. Ho presentato all'inizio la mia, una delle mie più grosse patologie, che è il rifiuto, ma per paura, per pusillanimità, per chissà quale mio profondo senso di disperata necessità di sentirmi onnipotente e immortale, di andare dal dottore. Da questa è nata una interessante discussione su quanto in realtà la contemporaneità dia sempre soluzioni mediche plausibili, possibili, a volte miracolose, per ogni nostro malessere. Mi ricordo un'ascoltatrice su Facebook, un meraviglioso film con Ugo Tognazzi, Il fischio al naso, che però è tratto, mi ricordo, da un racconto di Dino Buzzati, bellissimo racconto, La clinica dei sette piani, in cui questo signore entra per uno stupidissimo malessere insignificante, lo ricoverano nel piano 9 della clinica, dove ci sono quelli che semplicemente si fanno dare un'occhiata, via via medicalizzandosi assume patologie, finendo nel piano terrificante dei morti viventi, di quelli destinati a morire, senza nemmeno sapere perché, semplicemente perché ogni volta gli propongono esami nuovi, nuove analisi, e queste analisi dicono sempre che c'è qualcosa di più grave. E alla fine la medicalizzazione lo rende schiavo di una malattia che nemmeno lui pensava di avere, forse nemmeno aveva. Abbiamo come ospite questa mattina, oltre a Giuseppe Neri, neuropsichiatra, Antonio Maturo, che è un ricercatore dell'Università Ruffilli di Bologna, che ha curato il libro La medicalizzazione della vita, edito da Franco Angeli. Antonio Maturo, è in linea adesso? Sì, ci ecco, sono. Adesso abbiamo migliorato il segnale. Senta, vogliamo parlare, ne parlavo prima con Giuseppe Neri, durante la pausa, sulla iatrogenesi, quando la medicina ha bisogno di creare patologie per poter giustificare se stessa, esistere. Diciamo l'evoluzione delle tecnologie ci permette di scoprire sempre più degli aspetti controversi che, come lei raccontava, abbisognano di ulteriori analisi e ulteriore studio. Inoltre c'è da pensare al fatto che sempre più i medici vogliono proteggersi anche da possibili denunce, possibili imputazioni di colpa, e quindi per essere con la coscienza pulita e non rischiare economicamente, è molto più conveniente per loro prescrivere il più possibile delle analisi. Questo è ciò che accade negli Stati Uniti, che è la cosiddetta medicina. Beh, certo, lì c'è poi un grosso problema che devono farsi le assicurazioni poi private, c'è una grossa tentazione generalizzata ad approfittarsi, a fare causa per qualunque cosa al medico. Quindi è una situazione che lentamente sta trascimando anche alle nostre latitudini, comincia a esserci questa idea. Giuseppe Neri mi dice sì. Assolutamente, io ho visto una pubblicità di qualcosa che si chiama Periplo Familiare, in cui un personaggio che si è fatta molto pubblicità sulle televisioni private dice che lui è il testimonial di questa associazione che si rivolge a tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, in qualsiasi circostanza, ritengono di essere stati oggetto di un errore medico. Allora bisogna capire se vogliamo fare gli americani davvero, perché in America è vero che c'è un grosso quota di medicina difensiva, ma è anche vero che se tu accendi la televisione ti vedi la pubblicità dell'avvocato di New Orleans che dice: facciamo causa, tu non spendi un cent, se vinciamo prendo la percentuale. Esatto. Allora noi purtroppo rapidissimamente e disastrosamente stiamo viaggiando su questo crinale di fare causa per qualunque ragione. Secondo lei, Antonio Maturo, quanto in Italia è importante in questa radicalizzazione della cura medica, che non deve assolutamente criminalizzare assolutamente né medici né medicina, non prendete questa mattina una trasmissione contro la classe medica, però individuo un filone di persone che si sentono un po' schiacciati da questo continuo pullulare di trasmissioni mediche, una serie di medici fighetti che continuamente si vedono in televisione, sembra che loro siano i migliori in assoluto per ogni cura, per ogni patologia, semplicemente perché vanno a tutti i talk show a parlare. Ecco, è un fenomeno secondo lei questo che incide nella medicalizzazione dell'esistenza? Ma senz'altro, anche insomma, i pazienti sono sempre più dei consumatori più che delle persone malate, e vengono elicitati continuamente da queste trasmissioni che lei ha menzionato, ma poi si auto-esercerbano, insomma, da questa tendenza andando su internet cercando gruppi di discussione che confondono, danno tante informazioni, ma in fondo non rendono più chiara la situazione, semmai più complessa. Ecco, questo l'altro, diciamo che è l'esito tecnologico, certo, dell'antica enciclopedia medica, che tutte le nostre zie malate avevano in casa, che per ogni nostro malessere aprivano, trovavamo un tumore da qualche parte. Oggi cercare in internet, uno dice: cosa c'hai? Mi sento mal di pancia. Certo. Cerchi mal di pancia, viene fuori che tu potresti avere un quadro patologico devastante. Senza dubbio. Ma mi permetta anche di menzionare una parola che ancora non abbiamo menzionato, ed è la genetica, che oggi sembra un po' il termine più glamour insieme alle cellule staminali e che risolverà tutti i problemi della nostra esistenza futura. Ecco, proprio i media, più dei genetisti, che è una categoria ovviamente più che rispettabile, fomentano questa illusione che attraverso un micro intervento noi possiamo poi guarire miracolosamente da qualsiasi patologia. E tra l'altro questa idea della genetizzazione ci ha portato anche a leggere di scoperte, tra virgolette, del gene dell'essere di destra o di sinistra, del gene del tradimento, del gene dell'egoismo. Insomma, sembra che sia soltanto questa la leziologia, mentre soltanto il 5% delle morti è causata da motivi genetici. Ci sono cifre più che triple che riguardano morti dovute a stili di vita malsani. Quindi, Beppe Neri, anche sulle staminali, che è un termine di cui si è molto parlato in senso anche bioetico, però vedo pubblicità nei giornali che sembra che si possano comprare al mercato come se fossero noccioline. Allora, prima di tutto devo ringraziare Maturo perché ha detto una cosa fondamentale: se si facesse più educazione alla prevenzione e agli stili di vita, ne guadagneremmo tutti molto di più che pubblicizzando cose futuribili. Secondo, per usare un termine che forse a te piacerebbe, una delle più grosse bufale che abbiano circolato, cioè a fronte di dati documentati ma circoscritti a settori molto definiti e precisi, parlo della terapia con cellule staminali, c'è stato un battage pubblicitario a 360 gradi su malattie gravi, invalidanti, a prognosi infausta, soprattutto penso alle malattie del sistema nervoso centrale, dalla sclerosi multipla alla sclerosi laterale amiotrofica, in cui persone ai limiti della buona fede, vorrei dire, hanno propagandato. Il risultato lo sai qual è? e gente che fa i debiti o fa le catene di Sant'Antonio nella nostra provincia profonda per andare in Ucraina o in Cina a farsi somministrare cosiddette terapie con cellule staminali, il cui beneficio è aleatorio, in alcuni casi ci sono anche problemi, ma i cui danni all'economia della famiglia e dei parenti sono certi. Ennio, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Sì, spenga la radio, sennò sentiamo il suo fantasma che ripete ogni cosa che dice. Esatto, volevo dire la mia impressione per quanto riguarda i medici di famiglia. Prima avevo ascoltato appunto che un signore appunto che diceva che aveva poca fiducia. Io la stessa cosa, io non ho problemi, prendo poche medicine, però qualche volta che mi capita da farmi segnare o un medicinale perché ho avuto magari da uno specialista eccetera, quando mi trovo nello studio vedo che quello studio è fatto solo per misurare la pressione e per dare pillole, e qualche volta che dico qualche cosa che mi serve a me mi sbagliano pure le ricette, voglio dire. Io sono un po' deluso dal verso dei medici di famiglia, ecco. Sì, io non, però non generalizziamo sui problemi. No, io ho aperto la trasmissione dicendo che sento con un profondo senso di colpa questo mio atteggiamento. Non dico che sia giusto. Rispetto alla figura del medico, adesso ci ritorneremo, mi rendo conto che molte volte il colpo d'occhio, l'aspetto epidermico, mi diceva prima Beppe Neri che in certi paesi c'è una sorta di addetta all'igiene fisica dei medici, qualcosa del genere. Cioè, negli Stati Uniti, come tu sai, hanno un'ospedalità, nonostante Barack Obama cerchi di cambiare la tendenza, prevalentemente privata, c'è in ogni centro ospedaliero una o assistente sociale o infermiera che noi diremmo si occupa del look e banalmente vede se i medici hanno le unghie curate, hanno la camicia unta e bisunta, hanno cura della propria persona, perché l'immagine che dai di te quando ti devi prendere cura della salute delle persone conta parecchio. Noi questo forse lo acquisiremo in un tempo futuribile, tranne, e io lo devo dire, la consapevolezza, l'impegno, la stima di se stessi e la cura che ognuno ha di sé, ma a livello individuale e volontaristico. Io, se fosse possibile, eviterei tutti i medici che odorano di fumo, è una cosa molto fastidio. Mi capita ogni tanto di incrociare i medici e sentire quell'odore di sigaretta addosso, già dà un'idea di sfiducia. Edoarda. Sì, buongiorno. Buongiorno. Lei è una malata immaginaria? No, io sono un medico. Ah, un medico, perfetto. Per cui volevo un pochino portare la mia esperienza di figlia di un padre che per anni e anni ha sempre detto: io non vado dal medico perché comunque se ci vai ti trova qualcosa e poi chiaro, non si finisce mai, per cui... Ma finiremo tutti male noi che diciamo queste cose, io lo so perfettamente. Però devo dire che alla fine lui, vabbè, poi quando ha avuto bisogno di sforzo, ovviamente con io ho subito questa cosa, no, a dare retta a te eccetera, per cui vabbè, comunque... Dottoressa, è un po' come quegli atei sfegatati che in momento di morte chiedono il prete, crocifissi, acque sante. Noi finiremo così, lo so perfettamente. Lo so, spesso arrivano... Io ho lavorato per più di tre anni in un pronto soccorso, per cui spesso il paziente che non si cura, eccetera, arriva in pronto soccorso, disperato, dove di solito c'è lì un medico che, senza conoscerlo e senza fare, dovrebbe fare diagnosi, prognosi, terapia, dovrebbe curare, risolvere i male di tutti, cioè effettivamente è un'esperienza molto dura. Certo, come dicevate, il medico poi in questi frangenti è proprio il medico che forse crea più rapporto di fiducia col paziente, perché comunque, volente o nolente, deve affrontare la situazione, deve visitare, deve vedere, deve indagare, per cui crea il rapporto di fiducia, che però a volte va oltre il possibile, perché il paziente che per anni non si è curato poi viene a dirmi: ma allora cosa devo fare, che cos'ho, no? Quando il medico deve dire, dovevi pensarci prima. Il medico così, ecco, sì, poi è dura dirlo, anche perché poi ritorno al discorso meno simpatico e meno felice di questa nostra così esposizione a rischi legali, perché se uno osa dire al paziente dovevi pensarci prima, cioè rischia magari che il paziente poi ti denuncia o cose del genere. No, cioè questo, sono così sensibile, guarda, io non lo dirò mai a un medico, mi rendo conto che questa frase pesa come la lama di una ghigliottina sul mio fragile collo, ma è così. Condiziona la nostra vita e condiziona la vita dei medici, intende condiziona di riflesso in maniera ampia la vita dei pazienti, perché così come la medicalizzazione è veramente da questo senso di timore del medico che se non fa questo allora il giudice cosa dice, ogni tanto noi scherzando in pronto soccorso, così quando c'è il paziente particolare che così non riusciamo a inquadrare in maniera perfetta subito, e allora c'è sempre il collega dietro. Ma è interessante, dice... questa cosa che non avevo ancora percepito come osservatore, che comincia a circolare questo terrore della denuncia, terrore dell'assicurazione. 800 24 00 24, parliamo di medicalizzazione della nostra esistenza, però non vorrei che in questa trasmissione dare la stura a questo senso profondo di sfiducia che l'essere umano ha sempre verso tutto ciò che rappresenta comunque per lui un'uscita dalle sue sicurezze. Non vorrei che questa trasmissione diventasse una criminalizzazione o una messa sotto accusa dei medici di famiglia, che secondo me in Italia sono fra le persone che fanno meglio il loro lavoro, anzi sono l'anello più sensibile, il primo punto di collegamento fra noi esseri umani fragili e un sistema che può naturalmente provvedere alla cura di questa nostra fragilità. Quindi mi rendo conto che uno ce l'ha con il capo ufficio, uno ce l'ha con la persona che incontra per strada, ce l'ha con i familiari, ce l'ha con i preti, ce l'ha con i politici. È bello e liberatorio dire questo, ma però dire sempre che il medico di famiglia fa sfiducia, da sfiducia, quando poi è la persona che è il primo a cui noi pensiamo quando qualcosa turba fortemente la compattezza, la serenità della nostra famiglia. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Senti, mi sta andando via la voce, una sorta di punizione divina per quello che sto dicendo. Senta, guarda, io purtroppo, mio malgrado, soffro di alcune, non di una, di alcune malattie. È un malato immaginario, quindi... o reale? No, no, purtroppo reale. Realissime. Vabbè, purtroppo, mi dispiace. E quindi dal dottore, dai dottori anzi, ci devo andare periodicamente, sempre. E il problema non è andare o non andare dal dottore. Dottor Negri, mi scusi, c'è una voce di ritorno fastidiosissima, non so se è un problema... No, io la sento benissimo, guardi. Vabbè, comunque... La stiamo annullando. Forse sente un rumore strano come il fischio al naso o all'orecchio, no? No. Io purtroppo ho dei problemi neurologici dovuti ad un'ischemia che ho avuto, quindi questa malattia mi ha provocato tanti altri disturbi. Io sono andato da un dottore per un anno intero, e privatamente, perché se si aspetta, come si dice, il sistema nazionale sanitario, bisogna fare delle file, pagando ogni volta, andando lì 5 minuti per volta, solo per far vedere degli esami, non per fare la visita, solo per fare... botte di 150 euro per volta. Vabbè. E finché ho capito che questo dottore me la tirava così alla lunga solo perché ogni volta andassi da lui e, insomma, lo faceva a scopo di lucro. Non voglio negare ciò che sia accaduto, però stiamo uscendo un po' dal seminato. Io vorrei parlare dell'ipocondria, cioè delle persone che hanno una sorta di terrore terrificante la malattia, quindi ogni atto della loro esistenza, ogni momento, ogni espressione della loro vita potrebbe avere una soluzione medica. Se questa mattina vogliamo parlare degli infiniti problemi della sanità, bisogna parlarne in maniera circostanziata, chiara, concreta, non semplicemente dicendo il dottore se ne approfitta. Quindi la lascio con senso di partecipazione alle sue tante malattie, però non c'è assolutamente senso quello che sta dicendo. Giancarlo. Sì, buongiorno. Non perché voglia difendere a priori il medico, ma che senso ha dire il dottore si approfitta di me? Non c'è andare, va da un altro, se ci va continuamente e poi si lamenta di pagare i 150 euro, che non sono nemmeno una cifra eccessiva per uno specialista, si provvede altrimenti. Giancarlo. Sì, buongiorno. Sono un medico di famiglia da diversi anni e devo dire che noi ci scontriamo proprio tutti i giorni con l'ipocondria. Ci scontriamo nel senso che, siccome da noi non si pagano i 150 euro come lì, ma siamo gratuiti, siamo il primo accesso, come diceva lei prima, siamo la prima linea. La ricerca di sicurezza. Ecco, e chiaramente il problema nostro è di essere accessibili ma non aggredibili, cioè di avere sempre un contatto, la possibilità di un contatto. C'è chi di noi si è organizzato, io lavoro in un gruppo, abbiamo la segretaria, abbiamo un'infermiera, abbiamo dei filtri in modo tale di poter accogliere anche i bisogni del paziente, e devo dire che questo è sempre una cosa che è cresciuta sempre in più in questi anni. Cioè io rispetto a 25 anni fa, quando ho iniziato praticamente, vedo che c'è molto più tempo per le paure che non per le malattie. Anche perché secondo me, dottore, non so se che oggi sappiamo tantissimo, o almeno la presunzione di sapere, sì, perché conosciamo i nomi, conosciamo i quadri, leggiamo sui giornali, sappiamo dell'esistenza di un'infinità di patologie che probabilmente nemmeno ci sfioreranno mai nella nostra esistenza, perché sono patologie o lontane o molte volte gonfiate dal grande sistema che ha bisogno ogni anno di creare una serie di epidemie nazionali e mondiali. Sì, e devo dire che a volte queste... ci sono delle non malattie che sono diventate malattie. Cioè, facciamo un esempio: l'invecchiamento porta all'indebolimento delle ossa, questa è l'osteoporosi, e chiaramente ci sono dei quadri più gravi che sono proprio malattia, però abbiamo alcune persone che hanno il terrore di rompersi un osso, ma quando hanno un fisiologico invecchiamento dell'osso, sono delle malattie che anche il sistema stesso anche dell'industria tende ad amplificare, perché più c'è malattia più c'è bisogno di curarsi, più c'è bisogno di prendere farmaci, quando basterebbe fare un po' di movimento a volte o una sana alimentazione. Purtroppo la gente, quando viene messa di fronte alle sue responsabilità, cioè dici devi fare dell'attività fisica, devi cambiare la dieta, fa molta fatica e spera dal medico di avere comunque qualche cosa che gli risolva il problema. Dobbiamo cercare di capire queste cose, dobbiamo attrezzarci, e devo dire, come medici di famiglia siamo sempre in prima linea su questo aspetto. Per voi sarebbe molto più facile se doveste occuparvi soltanto delle persone realmente malate, diciamocelo chiaro. No, però direi che le malattie, quelle più complesse, è anche difficile curarle a domicilio. Noi dovremmo organizzare la prevenzione, dovremmo essere più coinvolti nella prevenzione, e però dovremmo anche poter avere dei supporti che noi ci siamo creati da soli, ma quando un medico lavora da solo è un po' difficile riuscire a organizzarsi. A me fa molto l'infermiere, aiuta molto l'infermiere, aiuta molto il personale in studio che mi aiuta a distribuire del materiale informativo, però chiaramente il colloquio col paziente aiuta tantissimo, però deve essere non limitato a questo il nostro rapporto. Cioè, bisogna comunque conoscersi, perché se tu conosci il paziente, a volte solo con una rassicurazione, io ormai ho diversi pazienti che seguo da tantissimi anni, basta a volte una telefonata per rassicurarli. Grazie dottore, la saluto, che siamo veramente in chiusura. Grazie. Giuseppe Neri, solo una conclusione, visto che l'aspetto psichico, psichiatrico e psicologico è gran parte del senso della telefonata del medico di famiglia che ci ha chiamato. Lui è un collega di cui sottoscrivo tutto, e soprattutto la frase finale che vale nella relazione medico-paziente vale soprattutto per i pazienti che hanno più problemi dello spirito che problemi del corpo. Cioè, è verissimo che sono problemi anche quelli. Assolutamente, soltanto che noi siamo costruiti dal contesto socioculturale per avere malattie di serie A, che sono l'infarto, la frattura del femore, e malattie di serie B, che sono sei un po' giù di corda, eccetera. No, però lui dice una cosa vera: se hai costruito un rapporto e conosci il tuo paziente, a volte, senza mistificare, basta una rassicurazione che deriva dal rapporto che esiste di fiducia fra te e lui per risolvere tanti problemi ed evitare anche percorsi costosi per la collettività per quanto riguardano gli esami, le indagini e tutto quello che di tecnologico viene a volte abusato oggi. Ringrazio Antonio Maturo, che ha scritto questo libro, ha curato questo libro sulla medicalizzazione della vita, Salute e Società, edito da Franco Angelo. Ringrazio Beppe Neri, ringrazio Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.